ho visto un documentario per televisione che mi ha profondamente scosso. Nulla di particolare, nulla che non si sapesse già, ma ha avuto la capacità di agire prepotentemente nelle mie riflessioni. Il documentario aveva lo scopo di dimostrare come, in India, gli abitanti avessero un rapporto stretto con il mondo circostante, compreso con gli animali. Per esempio, in una certa località vi è un tempio dedicato esclusivamente ai ratti, e vi sono delle persone consacrate ad essi, per farli vivere più agiatamente possibile. In effetti, come dicevano alcune persone intervistate, essi per loro non erano dei semplici topi, ma degli dei. Se uno inavvertitamente li avesse calciati o schiacciati, avrebbe commesso un grave peccato. Uno di quelli che dedicava il maggior tempo alla loro cura ha detto con orgoglio di prendersi cura di loro, perché in cambio i ratti lo aiutavano nella vita e negli affari. Senza di loro non avrebbe saputo come fare. Come si sa, quello con i ratti non è il solo rapporto che l'uomo ha con gli animali. Le mucche, ritenute anch'esse degli dèi, giravano con la più ampia libertà ovunque, al punto che il traffico cittadino dipendeva dal loro comportamento. Se una mucca si sdraiava in mezzo ad un incrocio, nessuno aveva il coraggio, né poteva indurla a spostarsi. Le mucche, come gli altri animali, non sono semplici animali, ma dèi. Queste sono le loro convinzioni, convinzioni maturate da secoli, millenni, convinzioni che appartengono a milioni e milioni di persone, convinzioni che, per loro, non sono e non devono essere messe in discussione. In un altro documentario, riguardante l'Africa, c'erano persone di alcune tribù che ritenevano i coccodrilli quali loro dei. Con orgoglio, davanti alla telecamera, esprimevano la loro fede in essi, incapaci a comprendere come altre popolazioni non li ritenessero degli dei. Qualche italiano, con la cultura italiana, potrebbe rimanere inorridito di tanta fede riposta male, ma anche il popolo italiano ha i suoi dei, statue, arazzi, quadri, che si pretende rappresentino Gesù, Maria o i santi, i quali vengono regolarmente portati in processione, venerati e ai quali si rivolgono ferventi preghiere. Nei templi ad essi dedicati, milioni di persone si inginocchiano, pregano con santa reverenza, cantano inni, rivolgono accorate suppliche, offrono una quantità di denaro incalcolabile, chiedono miracoli. Cultura. Tutta questione di cultura. E solo di questa. Cambieranno i metodi, i personaggi, ma comunque ciò che accomuna religiosi e non è la convinzione che la loro fede religiosa sia quella giusta. Nessun induista si porrebbe il problema se veramente esiste la reincarnazione, se è vero che l'anima dei loro morti è passata in un ratto, in una mucca o in qualsiasi altro animale o vegetale. Come quelli che adorano i coccodrilli, nessuno mette in dubbio che siano solamente animali. Allo stesso modo, il popolo italiano non mette minimamente in dubbio la sua espressione di fede, non osa neppure pensare che alcune madonne alle quali rivolge le preghiere non sono altro se non le raffigurazioni delle amanti dei pittori che le hanno dipinte. Le loro convinzioni sono più forti della realtà. Questi episodi dimostrano che, spesso, noi ci muoviamo più sulla base delle nostre convinzioni che sulla base della realtà. Siamo convinti di fare un buon affare e, poi, scopriamo il contrario. Siamo convinti di sposare la persona giusta. Per fare questo, a volte, si va contro tutti e tutto e, poi, negli anni, scopriamo di aver scelto la persona meno adatta. Siamo convinti di seguire la giusta fede. E poi scopriamo che ci hanno ingannato e ci siamo ingannati. Restare delusi è un dramma a volte letale. Presa coscienza di questo, dovremmo avere paura più delle nostre convinzioni che dei nostri dubbi. Mentre il dubbio può impedirci di compiere scelte sbagliate, le convinzioni no. Quando si è convinti che la nostra convinzione è giusta, non vi è più possibilità di riconoscere un eventuale errore. ci siamo messi in trappola di soli e siamo convinti di essere liberi. La convinzione è diventata la nostra certezza, anziché la certezza della realtà diventare la nostra convinzione. Esaminando la fede dei popoli, le convinzioni altrui, ci rendiamo conto quanto sia difficile avere le giuste convinzioni, soprattutto quando queste sono il patrimonio della società in cui viviamo. Lo abbiamo visto nel passato, lo vediamo anche ora. Ci fu un momento in cui il popolo italiano, senza essere minacciato, ritenne opportuno andare in guerra, scegliere una guida totalitaria. E, tutto questo, con le manifestazioni di gioia più grandi. Anche oggi, estremisti islamici ritengono opportuno e giusto assassinare delle persone innocenti per la loro causa. Difficile dissuadere le loro convinzioni. Ho parlato con due giovani musulmani del Vangelo, essi giudicavano ogni altra religione sbagliata, perché la giusta fede, per loro, era solo in Allah. Eppure feci presente, gli altri sono convinti quanto voi di avere la giusta fede. Sono convinti, mi dissero, ma sbagliano. Allora, replicai, questo non è possibile anche per voi? La domanda provocatoria non ebbe nessun effetto in menti così radicate quanto accecate dalla convinzione. Sì, ognuno di noi, dal suo punto di vista, pensa di avere ragione. Eppure qualcuno deve pur avere delle convinzioni sbagliate. Visto che, nel corso della storia del mondo, le cose non vanno come dovrebbero andare, visto che vi è tanta ingiustizia. Come risolvere questo dilemma? Come sapere se le mie convinzioni sono giuste o sbagliate? Cerchiamo di risolvere questa non indifferente e alquanto importante domanda. Poiché le convinzioni non sono una garanzia di correttezza, dobbiamo spostarci da esse e valutare le cose dal di fuori. In definitiva, per comprendere ciò che è giusto, non dobbiamo partire da ciò che già sappiamo e riteniamo essere vero. Non dobbiamo usare la nostra convinzione come presupposto per ogni altro ragionamento. Ma dobbiamo compiere lo sforzo di guardare al di fuori di noi, di ascoltare altre voci. In definitiva, dobbiamo metterci in discussione. Dobbiamo mettere in discussione anche le convinzioni più radicate. Nell'ambito delle religioni vi è una voce unica nel suo genere, che ha fatto affermazioni impossibili ad un uomo. Si tratta di un Galileo al quale è stato dato il nome Gesù, il cui significato è Dio con noi. In effetti, egli disse di essere Dio e che sarebbe risuscitato dai morti il terzo giorno dalla sua sepoltura. Ovviamente, come riguardo ad ogni altro personaggio religioso, per prima cosa ci si deve chiedere se Gesù è veramente esistito. Le nostre convinzioni non sono sufficienti per fare diventare vera una cosa falsa. Fonti storiche cristiane e soprattutto non cristiane, tra le quali il Corano, dimostrano che Gesù come uomo è veramente esistito. Preso atto di questo, comprendiamo dalle affermazioni stesse di Gesù che egli è il creatore di ogni cosa, del mondo, degli animali, della razza umana, che egli è Dio, che il culto deve essere reso solo a lui. Di fronte a tali affermazioni radicali, non ci resta che avere due reazioni: credere o non credere. Contestare, come è di moda, non porta nessun beneficio. Indagare, verificare, è saggio e, a volte, doveroso. Ma avere un atteggiamento di parità nei confronti di uno che dice di essere Dio non è possibile. Non si può. O lo giudichi un pazzo, per cui sei in una posizione di superiorità, o lo giudichi veramente il tuo Dio e, allora, rispettosamente, lo devi ascoltare. Se ho la convinzione che Gesù non è esistito, devo ricredermi davanti alla realtà storica. Se ho la convinzione che non sia Dio, allora sono costretto, non dagli altri, ma per la realtà stessa, verificare se è vero. Ma non posso assolutamente rimanere nel dubbio, la posta è troppo alta, perché lo possa ignorare. Vi è chi continua ad ignorare l'interrogativo, se Gesù è Dio o uno squilibrato. Ma, alla fine dei conti, lo squilibrato risulta lui stesso, non perché non crede in Cristo, ma perché vive la sua esistenza con un terribile e letale dubbio, ancor peggio ignorandolo. Almeno avesse la convinzione, che il cristianesimo è una bufala. Anche così, però, è incastrato in tutti i modi. Non può vivere nel dubbio, perché è l'atteggiamento meno razionale per un essere pensante. Che sia in grado e abbia la possibilità di verificarne la veridicità, non può essere certo delle sue convinzioni, perché, come abbiamo dimostrato, le convinzioni non rendono reale un'irrealtà, non rendono vera una cosa falsa. Allora, come comportarsi nell'ambito della fede? Non sono forse io sicuro della veridicità di quello che credo? Non sono forse convinto di avere io ragione e gli altri torto? Per quanto mi riguarda non è così. Se io fossi convinto che la mia fede sia quella giusta solo perché ne sono convinto, sarei come ogni altro uomo. Sarei convinto della mia convinzione. La mia fede sarebbe nella mia convinzione. E quindi, in altre parole, la mia fede altro non sarebbe che fede in me stesso. Ma quante volte le mie convinzioni si sono rivelate sbagliate? Ecco perché non ho nessuna convinzione che la mia fede sia quella giusta, solo perché ne sono convinto. Proprio per l'inaffidabilità della convinzione ho saggiamente rivolto il mio sguardo fuori da me stesso, ho cercato la verità altrove. Perché, se esiste la verità, essa non è in me, poiché, essendo in me, non avrei convinzioni sbagliate. Proprio per questo, dopo aver esaminato ogni religione, ogni capo religioso, ho notato che l'unico essere umano ad aver dichiarato di essere la verità oltre che di essere divino è stato sempre Gesù Cristo. Lui e lui solo ha detto questo e ha potuto dire questo. Di fronte a tale dichiarazione, non mi rimaneva altro che due possibili reazioni, crederci o non crederci. Dopo aver valutato ogni aspetto, alla fine mi sono reso conto che ciò che Gesù Cristo ha detto corrispondeva alla verità, proprio perché lui è la verità. La verità, quindi, non è un insieme di ragionamenti giusti che corrispondono alla realtà, ma è una persona. Preso coscienza di questo, ho accettato la persona di Gesù Cristo quale punto di riferimento per ogni mio ragionamento, quale mio Dio, e che, a Lui, ho affidato la mia vita. Questa mia esperienza non ha prodotto delle convinzioni, anzi, ha messo in subbuglio tutto il mio modo di ragionare e di considerare le cose. Ciò che ritenevo giusto era quasi sempre sbagliato. Ogni mia convinzione è stata tritata dalla verità di Cristo Gesù, affinché la mia fiducia non fosse risposta in me e, quindi, nelle mie convinzioni, ma nella persona di Gesù Cristo. Dopo 40 anni di fede in Cristo, devo confessare che non ho e non oso avere più nessuna mia convinzione sulla quale possa fare affidamento. Io non credo, nel modo più assoluto, che le mie convinzioni siano giuste solo perché ne sono convinto, perché continuo ancora a realizzare la mia relatività, ma piuttosto ho affidato la mia vita presente e il mio futuro totalmente in Gesù Cristo. Questo se voglio indagare nel profondo del mio essere anche senza una profonda convinzione, ma poiché relativo sono e tale rimango, poiché nessuna convinzione potrà garantirmi la certezza delle cose, in questo stato così relativo e dubbioso, mi sono buttato letteralmente nelle braccia di Gesù Cristo, quale mio Dio, mio Signore e Salvatore. Se ho fallito, se ho sbagliato tutto, se ho fatto l'errore più grande della mia vita, ho scelto di farlo nelle braccia di chi è morto per me, salvandomi dalla perdizione per l'eternità. E solo Lui ha compiuto questo gesto. E, poiché tutto è relativo, imperfetto, poiché non posso fidarmi sulle mie convinzioni, credo più a ciò che Gesù disse di sé e di me, che alle mie certezze precarie, anche se nel profondo del mio essere non le ritenessi tali. In fondo, alla fine di ogni ragionamento, è questo che Gesù Cristo chiede, fede incondizionata in Lui e dubitare delle nostre mutevoli, caduche, convinzioni. Credo che Dio non permetta a nessuna creatura umana di avere, in ultima analisi, nessuna certezza matematica per il destino eterno dell'uomo, proprio perché la certezza, la verità, è Lui. Proprio perché lo è, Lui vuole essere la nostra certezza, la nostra convinzione. Per questo motivo io non ho convinzioni quale risultato del mio ragionare, ma Gesù Cristo è la mia convinzione. Per chi lo può comprendere, la differenza è abissale. Le mie convinzioni sono il risultato di una mia autoaffermazione, mentre diventando Cristo la mia convinzione, Lui è la pietra angolare sulla quale poggia tutta la mia imperfetta, limitata, temporanea, dubbiosa vita. Chi ha compreso questo, chi fa di Cristo il fondamento di ogni ragionamento, trova pace, serenità, sicurezza, certezze che non hanno uguali, perché scopre e realizza che Gesù Cristo è più sicuro e stabile di ogni convinta e convincente umana convinzione. Dicembre 2003. Ellero.